nessuno ve l'ha mai raccontato. Aloha, sono Chuck Bird e sono qui per consegnarvi il vostro backstage pass. Lascia passare per quelle aree di solito non aperte al pubblico. Ho un sacco di belle storie da raccontarvi, cose che probabilmente non avete mai sentito nelle interviste o letto nelle biografie ufficiali. C'è un episodio nella vita di Ozzy Madman Osbourne che è noto a quasi tutti i fan di rock and roll, è quello della testa di pipistrello mozzata con un morso. Molti sostengono che l'ex cantante dei Black Sabbath fosse veramente posseduto da una forza demoniaca che lo indusse nell'insano gesto. La verità è che il povero Ozzy, che un po' fuori di testa lo era veramente, era convinto che il pipistrello facesse parte di una sorta di messa in scena di cui si era dimenticato, cioè che fosse di plastica o cartapesta. Quando si rese conto che l'animaletto era vero, beh, credetemi, ci rimase piuttosto male. Ma la cosa peggiore riguardo a questo episodio, ha confessato un giorno, è stata la profilassi antirabbica che ha dovuto seguire per settimane dopo la decapitazione del povero pipistrello. È l'ora della puntura, Ozzy? No! Forse è per colpa di tutte quelle iniezioni nel sedere che è nata Bark at the Moon, ululare alla luna. No! Un'altra puntura! No! The moon.